Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Ehi, giovane? Giovane, per modo di dire. Giovane della terza età. Ignazio La Trota. Sergente Galbiati. Non mi piacciono i drogatelli nel mio quartiere. Non sono drogatello. Con quella faccia? È la mia faccia. Hai quella faccia senza drogarti? Preoccupati. Cosa stai combinando, fancazzista? C'ho due tiri a pallacanestro. Pallacanestro? E cosa saresti, un playmaker nano? Parlato il figlio di Michael Jordan. Sorridiamo, cosa dobbiamo fare? Buona domenica 15 marzo, nonostante tutto, bentrovati nel giardino di Radio 24. Uno sketch del trio del buon umore, Aldo, Giovanni e Giacomo in apertura, non solo per strappare un sorriso, ma anche per introdurre l'ospite di oggi. Inaspettato, devo dire, per un programma sulle piante e sul verde dentro le città come questo. Eppure, ve ne accorgerete, quest'ospite, milanese doc, rappresenta un modello per tutti i cittadini che un contatto stretto con la natura vogliono mantenerlo o, nel caso si sia già dissolto, recuperarlo. Non occorre una tenuta, bastano le piante sul balcone o dentro casa per rendere l'ambiente indoor, dove in questi giorni facciamo bene a restare, migliore e più vivibile. Ce lo insegna questo artista, mimo, sportivo, innamorato delle piante. La terra ride nei fiori. Ralph Waldo Emerson. Ben trovato al Giardino Segreto a Giovanni Storti. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno e buona domenica. È un onore per me avere uno dei protagonisti del trio comico più famoso d'Italia, perché forse lei non se ne rende conto, Giovanni Storti. Ma diamoci che... del tu, se no mi sento, già sono un anziano in più. E già io mi sento lei. Mi sento importante allora. No. Che parli di cinema, che si parli di corsa, di sport, perché poi gli ascoltatori di Radio 24 ti conoscono perché spesso sei da Nicoletta Carbone, no? A parlare della tua passione e così via. Comunque la tua voce mette buon umore. Sono contento. Sei consapevole di essere portatore sano di buon umore? Assolutamente, io sono... cioè è una mia caratteristica, sono, me lo dicono e sono contento e lo applico, diciamo, parlo proprio in questa mia forma gioviale. Che bella roba, soprattutto in un momento così di incertezza, di cautela, di isolamento. Insomma, sì. Un po' di leggerezza, un sorriso, una risatina fa parecchio bene. Insomma, ci vuole anche quello, assolutamente. Ma perché Giovanni Storti al Giardino Segreto? Perché mi sono resa conto da una campagna che è stata lanciata da Ricola, vabbè, facciamo pubblicità, fanno le caramelle alle erbe. Che appunto Ricola si è affidata a Stefano Mancuso, questo neurobiologo, questo scienziato divulgatore ormai conosciutissimo, e a Giovanni Storti. Sì, perché aveva bisogno della sapienza e della giullarità. Allora ho unito la sapienza e la giullarità che sono io, però sono molto amante delle piante, quindi non è che sono proprio solo la giullarità, sono anche abbastanza esperto. È questo, quindi Giovanni Storti non soltanto è un ospite oggi, è un esperto, perché condivide la passione per le piante con Stefano Mancuso, ma con tutti noi, possiamo dirlo. Assolutamente. Sì, anche sì. Se da questa campagna, da questa miniserie di puntate divertenti, dalla campagna forse non si capirà questo. Mi sembra che tu travisi quello che dice Stefano Mancuso, o sbaglio? No, io parto con una domanda, no, che può essere appunto: le piante sono intelligenti, le piante hanno memoria, le piante vedono con dei piccoli fatti buffi, vado da Mancuso e Mancuso mi spiega scientificamente questa caratteristica delle piante e io la sperimento poi a casa con le piante. Il meccanismo è questo. In maniera piuttosto originale la sperimenti? In maniera originale e buffa, chiaramente. Quando le vedremo queste puntate? È una ogni lunedì, domani ci sarà l'altra e poi 5 puntate sono su, appunto, sulle piante, sull'intelligenza, memoria, ricordi, eccetera, delle piante. E le puntate le vediamo su YouTube, sul sito di Ricola? Le vediamo su YouTube, sul sito di Ricola e sul nostro sito di Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto. Ecco, quello che io mi chiedo è, Giovanni Storti è nato a Milano, sei nato a Milano in città? Sono nato a Milano, sì, sono un cittadino ma anche uomo di bosco. Ci spieghi come sei diventato uomo di bosco nascendo a Milano? Parenti, il nonno? Beh, No, in realtà ho passato un periodo, diciamo, i periodi estivi della mia infanzia che ho passati sopra Lecco, che negli anni 60 sembrava l'Amazzonia, almeno a noi, e quindi salivo sulle piante, mio nonno me le raccontava, le conoscevo, e quindi ho iniziato subito ad amare la natura e soprattutto la pianta in quanto tale, insomma. Perché? È perché la pianta ci ha inventato, le piante hanno inventato il mondo, hanno creato l'atmosfera, ci hanno dato il cibo da vestire, le medicine, l'energia, cioè le piante ci danno tutto, quindi in realtà adesso non vorrei dire una bestemmia, ma le piante sono quasi Dio, se vuoi. Ho detto una bestemmia. È condivisibile come visione, visto che sono nate prima loro e poi noi, e visto che esistiamo semplicemente grazie a loro, insomma, abbiamo di che esserle grate. Siamo clamorosamente dipendenti e non lo sappiamo. Ma tra l'amore per le piante e la riconoscenza c'è anche poi una certa, come dire, capacità di coltivazione? Beh, sì, io sto piantando da un po' di anni tantissime piante, un piccolo podere, chiamiamolo così, una zona agricola nel Monferrato, e con mia moglie stiamo sperimentando un po' di cultura biodinamica, e poi sto piantando un sacco di piante. Per ora ho fatto 2 piccoli boschi di acace, poi ho piantato un po' di tutto, bagolari, ginkgo biloba, maggiociondoli, insomma sto allargando la parte prato dandola alle piante, insomma. No, noi ci saremmo accontentati di un giardiniere, di giardinaggio, qui parliamo di agricoltura. Beh, agricoltura fatta da uno completamente inesperto, appunto sono... faccio le cose solo dettato dall'amore, dalla passione di questo, anche a Milano, perché ho un paio di terrazzi condominiali che gentilmente mi hanno ceduto, e abbiamo circa 85 piante, alcune anche importanti. Quindi siamo partiti dai vasi sui terrazzi per poi andare, diciamo, in una tenuta nel Monferrato. Eh sì, esattamente. E quanto tempo fa è successo? Questo è successo, 5-6 anni fa, da 10 anni siamo lì, poi abbiamo allargato il nostro territorio e saranno 5-6 anni che stiamo coltivando. Poi fortunatamente è arrivato anche un apicoltore che, passando di lì, ha detto: ma questo è un posto bellissimo, pieno di fiori, di piante. Allora ha detto: beh, se cura lei le api le può mettere lì. Lui le ha messe e noi abbiamo seminato tutto a prato fiorito, e le api sono contentissime. Avete di quello tutto. Che gli abbiamo messo. Abbiamo tutto, capisci? Ecco, abbiamo, ma com'è tutto. Questo passaggio tra cittadino, artista, comico, a, insomma, in qualche modo uomo di terra? Si può fare anche soltanto partendo da 4 vasi sul balcone, poi... Ma sai, quando in tutte le cose che vuoi fare, se c'è passione e quindi c'è attenzione, ti industri un po', quindi acquisti un po' di conoscenza, tutto puoi fare. La passione porta a fare tutto quello che vuoi. Quindi avete imparato ormai? No, non abbiamo imparato, abbiamo imparato un pochettino, cioè la cultura contadina è un'altra cosa, ogni anno ci accorgiamo che la natura un po' ti rema contro, diciamo, gli insetti e tutto, poi adesso che sta cambiando anche il clima è un problema, però ogni anno impari qualcosina e cerchi di inventarti e di seguire quello che ti dice la pianta, no? Noi siamo di quella scuola che dice, insomma, le piante, gli ortaggi crescono un po' dove vogliono, quindi anche nell'orto non è che seminiamo precisamente una cosa lì, una cosa là, buttiamo i semi e poi vediamo dove crescono, dove le piante vogliono crescere, dove gli piace crescere. E forse, siamo fatti un po' così. E forse diciamo, la goduria ancora prima di assaggiare i prodotti dell'orto è proprio farlo, quest'orto, mettere le mani nella terra, quella roba lì. Ma guarda, se noi veramente osservassimo con attenzione la natura, impareremmo tantissime cose. Prima di tutto, la prima cosa che impareremmo è che la terra non è morta. Cioè, l'agricoltura industriale è andata in quella direzione lì, ma è veramente un ammazzare se stessi. Lo vedi, se ti metti lì a guardare la terra, vedi, sono dentro i ragni, i vermi, non so, gli insettini. Tutto questo fa parte della natura, fa parte della crescita dell'erba, delle piante, tutto quello che serve. se le impoverisci, gli metti tre sostanze in un posto dove ce ne sono 100.000, è chiaro che quello che otterrai è veramente povero, mentre la terra vera ha veramente un'esplosione di possibilità e di vita incredibile. La terra è viva, evidentemente le nostre mani questo lo sentono, ed è per quello che è così bello toccarla, no? Certo, ma assolutamente. Ci sono delle giornate, per esempio adesso, che se il tuo campo è sano, non ci hai buttato schifezze, è sano da un po' di tempo, che si formano tutte delle ragnateline, perché è pieno di ragni, ma sono ragni molto piccoli. Tu guardi il campo, ma calpo tipo anche 1, 2, 3 ettari, e sono pieni di ragnateline. C'è su questa rugiada, è uno spettacolo incredibile. Se tu vai in un posto dove la terra è lavorata in un modo brutto, non ci sono queste robe qua, non ci sono, e invece ti danno una soddisfazione, un piacere anche vederle, molto forte. È uno spettacolo che non ho mai visto, e chissà quanta gente di città. Una volta ti invito, è una cosa incredibile, veramente incredibile. Io non voglio farti fare lo spiegone, però hai detto che coltivate in maniera biodinamica, cioè? La biodinamica si rifà alla scuola steineriana, insomma, diciamo, tratta la terra in una maniera, cioè senza usare concimi, senza usare antiparassitari, senza usare queste cose qua. Adesso è un po' complicato il meccanismo. Perché uno dice, vabbè, ma allora quella è coltivazione biologica. No, la biodinamica si spinge ancora più in là, usa dei meccanismi, cioè praticamente dinamizza la terra. Non vogliamo condividere, consigliamo questa tecnica? Consigliamo. Beh, consigliamo, no? La tecnica è difficile. Adesso noi, ripeto, non è che siamo riusciti a fare questa cosa, però ci proviamo in alcuni pezzetti e riusciamo a farlo. Cioè, implica anche cambiare il tipo di coltivazione, no? Quindi rinnovare il terreno con piante diverse. Assolutamente, poi c'è della sinergia tra alcune piante, cioè alcune piante stanno bene con altre, alcuni ortaggi, con altre no, quindi insomma c'è tutto anche uno studio, cioè ci vuole anche un po' di conoscenza, noi ne abbiamo poca, però chi la fa seriamente deve avere una grande conoscenza di questo tipo di coltivazione. È la natura, cioè, che aiuta la natura. La natura che aiuta la natura. E esatto, ce la fa benissimo, perché, di norma. Perché la natura, in realtà, se la lasci fare, lei ha tutto. È inutile che tu la forzi e cerchi di cambiarla. La natura in realtà ha tutto. Certo, noi siamo andati purtroppo nella direzione opposta, abbiamo impoverito e poi cerchiamo di rimettergli dentro delle cose. Non è così. La natura, se la lasci com'è, lei ha tutto. Ha tutto e ti dà tutto. Certo, devi osservarla e capire come puoi agire su di essa, ma non violentarla. Natura, devi lasciarla fare. E lei sa fare. In questo momento un po' strano, la gente ha più tempo perché magari fa lo smart working e quindi non deve più andare al lavoro. In tutto questo c'è anche più tempo allora per dedicarsi alla natura. Forse adesso, forse potrebbe darsi. Potrebbe essere un'idea. Gli ambienti naturali sono, se ti danno anche una gioia, una sanità maggiore, no? E quindi ti puoi soffermare a guardare di più che cos'hai attorno. Ma poi, ecco, per chi sta in città, compratevi una pianta piccolina e la curate e la vedete crescere e vedrete che vi dà soddisfazione. Se tu la guardi ogni volta, anzi esagerate, la fotografate ogni stagione per 10 anni, poi vedi che cambiamenti, come si muove. Uno dice poi la pianta è ferma, non è mai ferma la pianta dorme, la pianta è sveglia, la pianta rinasce. Insomma, compratevi una pianta, più di una pianta, oppure curate una pianta, oppure salvate una pianta, ecco. Questo è il consiglio di Giovanni Storti. A quando un libro? A questo punto ce lo aspettiamo. No, un libro non lo so, però magari in teatro o su YouTube racconterò un po' delle piante, perché ho un po' di idee. Poi anche con Mancuso, magari, chi lo sa, magari facciamo uno spettacolo io e Mancuso, che è veramente un uomo illuminato. Magari. Quindi è bello lavorare con lui. Io la do per fatta, quella dello spettacolo. Bene. Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Grazie infinite per ora, buona coltivazione in Monferrato. Grazie a voi e grazie a tutti e buona domenica. Noi non siamo i padroni del pianeta. Sulla Terra, ogni 10.000 piante, ci sono 40 animali e solamente un uomo. Quest'essere umano ha un pensiero che gli toglie il sonno. Dormire con le piante. Fa male? Solo Stefano Mancuso, esperto mondiale di neurobiologia vegetale, può rispondere a questa domanda. Le piante di giorno producono ossigeno, che è ciò che ci permette a tutti quanti di sopravvivere, e questa è una gran bella notizia. Di notte, invece, la produzione di ossigeno termina, ma inizia una piccola produzione di anidride carbonica, che è questa molecola qui. Ma quanta ne producono? Poca, molto poca. Se tu dormi, ad esempio, nella tua stanza con qualche essere umano, ebbene, questo produce molta più anidride carbonica di qualunque numero di piante tu possa tenere in stanza con te. Questa è una delle puntate della miniserie della campagna Ricola. Giovanni Storti non si sente ma si vede, e vi assicuro che consigli di Stefano Mancuso li travisa facendo parecchio ridere, ma non spoilero, andatelo a vedere. Tra poco vi propongo un'altra pillola, le trovate su YouTube o sul profilo Facebook di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci sentiamo tra un attimo. Il giardino segreto. La scienza lo ha dimostrato. Noi animali non siamo all'altezza delle piante. Una sequoia può raggiungere i 115 metri, un giraffide i 6 metri. E un uomo. I segreti di quest'uomo sono davvero al sicuro? Le piante possono spiarci? Solo Stefano Mancuso, esperto mondiale di neurobiologia vegetale, può rispondere a questa domanda. Le piante hanno tutto il loro corpo, soprattutto le foglie, coperte da fotorecettori che permettono a loro di percepire la luce. Quindi questo lo sapevamo da tempo. Ora però sembra che abbiano anche la capacità di percepire le forme. Pensa questa pianta, ad esempio. Questa si chiama Bochila trifoliata. È una pianta arrampicante originaria del Cile, quindi si arrampica sugli altri alberi. Bene, si arrampica e ne imita le foglie. E riesce a crescere anche su 3-4 specie differenti, imitando le foglie di piante molto diverse. Se non fosse in grado di vedere, no? Come potrebbe imitare queste foglie? Le piante ci vedono. Ve l'ho detto che sarebbe arrivata un'altra pillola di Mancuso Storti. Il neurobiologo vegetale ha fatto l'esempio di una pianta le cui foglie imitano quelle del vegetale su cui si arrampica. È la bochilla trifogliata, Bochilla con la Q, trifogliata si scrive. Andate a vedere su internet le capacità camaleontiche di questa pianta sudamericana. Uno dei tanti esempi sorprendenti del mondo vegetale, che tra l'altro sono racchiusi nei libri di Mancuso. Torno a consigliarne uno su tutti, anche se non è l'ultimo, Verde Brillante. Ma a proposito di foglie, esistono degli esemplari che ne portano di davvero straordinarie, foglie in grado di stupire, ammagliare, decorare esattamente come i fiori. Ve ne sto per presentare alcune che potremo presto procurarci, perché sono piante che stanno bene negli appartamenti di città. Me la fate conoscere un'agronoma che avete già incontrato qui al Giardino Segreto, Giulia Tamai di dotroom.it. Sentiamo. Questa foglia è la foglia della Tradescantia, la Tradescantia zebrina. Questa è la pianta di Capodanno, perché ha i brillantini. Questa mi sento spesso domandare cosa c'è spruzzato sopra. È una pianta finta. Questa è una delle piante, secondo me, con un fogliame più bello che c'è. Guarda, ha appunto questa superficie iridescente, brillantinata, e sotto, guarda di che colore è. Ma un viola, lucido, è davvero incredibile. È una pianta con un fogliame veramente stupendo. Tradescantia zebrina. Ricordiamoci questo nome. Che poi viene dalla grande famiglia della pianta miseria. E infatti è una pianta che non ha bisogno di niente, pochissima acqua. Luce sì, però. Anche diretta? Anche diretta, sì, senza problemi. Beh, sembra, come dire, davvero rifletterla questa luce, sì, questa pianta, attraverso queste foglie argentate sopra e viola acceso sotto, magnifiche. Tradescantia zebrina. O se no, guarda, un altro bel esempio di fogliame è questa qui. Questa qua è la Calathea lancifoglia. Queste foglie sono dipinte a mano, vero? Assolutamente sì, guarda, vedi? No, ma davvero sembrano dipinte. Sono bellissime, sì. sì. Sembrano ceramiche dipinte. È tutta natura. Questo disegno non è altro che una strategia della pianta per ingannare i predatori. L'insetto scambia la foglia grande per tante foglie piccoline, vedi? Geniale. Calathea lancifolia, se volete, esatto. Foglie di porcellana. Un'altra pianta che sembra che sia stata schizzata da un imbianchino è la begonia maculata. Come se vogliamo sbizzarrirci con le foglie, le begonie, esatto, sono naturalmente adatte. Quelle a pois sono straordinarie e si usano molto in questo momento. Possiamo parlare di moda? Possiamo parlare di moda, purtroppo. Ebbene sì, ma va bene, ci sta. Mm-hmm. Ci sta, però come puoi vedere le begonie offrono un fogliame di un colore meraviglioso, oltre che appunto fantasia come la begonia maculata. Ci sono queste qua, le begonie botaniche Rex, che sono una cosa meravigliosa, cioè, quindi rosse, sì, tutte queste varie gradazioni di rosso o foglia tipo argentata, sono bellissime. Magnifiche le begonie. Questa? Queste qua sono sempre delle calatee, anche loro. E questa qua è la rosea picta. E quella qui abbiamo tre foglie, una foglia più piccola, una più grande e una più grande ancora, stando a guardare il disegno di questa calatea. Esatto. Calatea, rosea picta. Medaglio, rosea picta, lancifoglia, ma calatea, ce la possiamo ricordare se vogliamo sbizzarrirci con le foglie. E fino ad arrivare al rosso delle fittonie, le piccole piantine che troviamo davvero anche nei garden, è facilissimo. Assolutamente sì, e queste sono quelle che io utilizzo prevalentemente per i terrarium. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Tra Descanzia zebrina, la pianta con i brillantini, la calatea lancifoglia, con le foglie che sembrano dipinte a mano, la begonia maculata, la pianta pois. Andate a vederle in internet perché sono sorprendentemente belle. Se vi foste messi in questi giorni di riposo forzato a trafficare per la prima volta con vasi, terrici e piante, sappiate che potete trovare consigli utili nelle puntate passate del Giardino Segreto. In particolare mi vengono in mente quelle che avevamo dedicato alla bici del giardinaggio. Abbiamo parlato anche di piccoli orti urbani e di tante altre cose. Radio24.it o le piattaforme podcast per riascoltare il Giardino Segreto. Un abbraccio, vi aspetto domenica prossima sempre a metà pomeriggio. Restiamo ottimisti e prudenti. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.